ricordarti già penso come una storia importante e sincera, anche se viene il sentimento ora è come brisa leggera. E sto pensando in parole di addio che dà un dolore intenso, però si busca se nel sé che incontrará. Momentos que quedarán así, grabados en la mente. Hay amores que dejarán una canción para siempre. Palabras que quedarán así, muy dentro de la gente. Tan solo tú y ahora debo dejarte.